indietro, odio fra poco, col sangue nostro lo spegnerò. Coraggio, figlio, prima d'amarti, non può frenarmi il tuo martir. Madre infelice, corro a salvarti. Thank you.